Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Caro Energia, confermata la cassa integrazione per un massimo di 290 dipendenti alla cartiera Mosaico di Tolmezzo, parte del gruppo Burgo. Non ci sarà il fermo dell'intera fabbrica. Dalla Confindustria Alto Adriatico l'appello alle istituzioni a sveltire procedure autorizzative e burocrazia per impianti fotovoltaici e autoproduzione di energia. Obiettivo a lungo termine, i termovalorizzatori. Barzi, l'attese 6.000 persone al corteo di sabato a Trieste, cittadini e istituzioni accanto ai lavoratori. Volantinaggio in città, la solidarietà nei confronti dei lavoratori unanime alla manifestazione anche da Napoli e Genova. Con la crisi Varsi la rischio pure l'asilo dei figli degli operai. Per concorrere a 25 posti di una nuova figura professionale che intreccia i compiti dell'infermiera a quelli dell'operatore sociosanitario, a Udine si presentano alla selezione oltre 300 candidati. Sempre nel capoluogo friulano, fra una settimana torna Friuli Doc, 4 giorni di festa con i sapori tipici della tradizione del territorio. Dopo essere rimasta chiusa a causa di una frana, è stata riaperta al traffico la strada regionale 465 tra Cercivento e Ravascletto, al momento la circolazione a senso unico alternato. Funzione e gestione dei boschi carsici nell'attuale crisi climatica è il titolo dell'incontro organizzato a Doberdò del Lago dall'associazione ambientalista Lega Ambiente, che prevede più interventi dedicati a 360 gradi a pianificazione e tutela dell'area boschiva. ITS compie 20 anni, il talent internazionale di giovani creativi che da Trieste ha conquistato il mondo festeggia il traguardo con 2 eventi distinti. A Gradisca di Sonzo è iniziata la 36esima edizione del trofeo internazionale Nereo Rocco, che si concluderà il 7 settembre. 8 le squadre partecipanti divise in 2 gironi. Nella partita d'esordio, valanga di gol per il Pordenone, che si è imposto sul Martellago per 8-0. Le 7:20 minuti, questi titoli, buongiorno da Giorgio Beyerz e Maria Spezia, che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 2 settembre. In apertura diamo uno sguardo alle condizioni del meteo e alle previsioni per oggi. Il cielo è sereno o poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 6. A Trieste ci sono 19,5 gradi, il vento soffia a 31 km orari da est, nord-est, bora, con raffiche che hanno raggiunto i 57 km orari. Il mare è poco mosso con temperatura di 23 gradi e 5 decimi. A Udine 15 gradi e mezzo, a Gorizia 16 gradi e 5 decimi, a Pordenone 17 gradi e mezzo. 15 gradi e 5 decimi a Tolmezzo, a Forni di Sopra 12 gradi, a Piancavallo 10, a Sappada 9 gradi e 5 decimi, a Tervisio 7 gradi. Sul Monte Zoncolan 6 gradi, sul Monte Lussari 4 gradi e 5 decimi, sulla costa a Lignano 10 gradi e mezzo, a Grado 20, la temperatura del mare è di 23 gradi. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi, cielo in genere sereno, poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità nel pomeriggio su Alpi e Prealpi Carniche, dove sarà possibile qualche locale rovescio pomeridiano al confine con il Cadore. Al mattino sulla costa soffierà bora moderata che tenderà a girare di brezza nelle ore centrali. In apertura il mondo del lavoro, c'è anche la cartiera Burgo di Tolmezzo tra le aziende in affanno a causa dei costi sempre più elevati dell'energia e costrette quindi a ricorrere agli ammortizzatori sociali. Si cercherà in questo caso di limitare l'impatto della cassa integrazione ricorrendo a rotazioni dei lavoratori e al blocco delle sole produzioni più energivore. Confermata la cassa integrazione per un massimo di 290 dipendenti alla cartiera Mosaico di Tolmezzo, parte del gruppo Burgo. Si è svolto, come da programma, l'incontro con i sindacati, parte del normale iter per fare ricorso agli ammortizzatori sociali. Non ci sarà il fermo dell'intera fabbrica. Dal 5 settembre fino al 2 ottobre si cercherà di interrompere solamente le produzioni più energivore, come quelle per la produzione di cellulosa, e di limitare l'impatto della cassa integrazione sul personale grazie a una rotazione dei lavoratori. Chi potrà essere ricollocato svolgerà altre attività, per esempio manutenzioni, oppure potrebbe richiedere arretrati di ferie da smaltire, così da ridurre il numero di giorni di utilizzo dell'istituto INPS. A metà mese è previsto un altro incontro per monitorare la situazione e valutare le prospettive di ripresa. Si naviga comunque a vista, molto dipenderà dal prezzo del metano. L'indennità era stata richiesta a causa di un aumento di costi dell'energia di carattere imprevedibile e di entità consistente. Nell'impianto di Duino, venduto al gruppo Mondi ma ancora parte di Burgo fino a fine anno, al momento non è previsto il ricorso ad ammortizzatori sociali per gli oltre 200 addetti. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ci attendiamo dalle istituzioni lo snellimento immediato dei processi autorizzativi. Non sappiamo quale governo si insedierà tra qualche settimana e non siamo in grado di sopravvivere con i consueti tempi e le procedure della politica. C'è bisogno di una corsia straordinaria, rapida, che ci permetta di accorciare quanto più possibile i tempi di cui già oggi non disponiamo. È la richiesta formulata dal presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, durante un incontro convocato per illustrare alle imprese le iniziative perfezionate nelle ultime settimane per far fronte alla grave situazione innescata dal caro energia. Confindustria Alto Adriatico, è stato spiegato, è pronta ad agire con la massima rapidità per supportare tecnicamente e finanziariamente le proprie imprese, sia con la task force istituita in collaborazione con il Polo Tecnologico Alto Adriatico, sia con accordi col mondo finanziario mirati a contenere l'emergenza di cassa. Ma si chiede anche l'intervento delle istituzioni. Secondo Agrusti, le aziende devono diminuire il peso della dipendenza energetica. Affinché ciò possa avvenire, la strada da seguire è quella dell'efficientamento tramite autoproduzione. Nell'immediatezza la soluzione è il fotovoltaico. Per quanto concerne invece i piani con orizzonte più lungo, si ripropone la realizzazione di impianti di termovalorizzazione che, ha spiegato Agrusti, è possibile allestire per singola unità in soli 7 mesi, una struttura rigorosamente pubblica da cui potranno trarre un incredibile vantaggio cittadini e imprese. C'è un progetto, stiamo aspettando indicazioni normative, lo faremo, ha concluso Agrusti. Si prevede una partecipazione massiccia e grande compattezza alla manifestazione indetta dai sindacati per domani, sabato, in difesa dei 450 lavoratori della Wärtsilä. Non si sblocca intanto la vicenda della nave che deve caricare i 12 motori prodotti allo stabilimento di Bagnoli da consegnare alla Daewoo in Corea del Sud, e di conseguenza è sfumata anche l'ipotesi di un presidio dei lavoratori in porto. Sono oltre 6.000 i partecipanti attesi alla manifestazione in difesa dei lavoratori della Wärtsilä in programma sabato a Trieste. Le adesioni sono arrivate dalle istituzioni, dal mondo dell'economia, della politica, delle associazioni e dello sport. Scenderanno in piazza anche tanti semplici cittadini, in arrivo da tutto il Friuli Venezia Giulia, e una piccola parte da fuori regione, tra cui lavoratori della Wärtsilä di Genova e Napoli. Nel Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, che si è tenuto in prefettura a Trieste, non sono emerse tensioni particolari che potrebbero complicare il corteo. La solidarietà nei confronti dei lavoratori è unanime, dunque non si prospettano contrapposizioni. La manifestazione, indetta da CGIL e CISL e UIL, partirà alle 17 dal Foro Ulpiano, con raduno alle 16.30, passerà per via Carducci, piazza Goldoni, corso Italia e si concluderà in piazza Unità, dove sarà allestito un palco e dove è previsto l'intervento dei segretari generali di FIM, FIOM e Wilm. Resta aperta nel frattempo la vicenda della nave UHL Fusion, da sabato in rada a Trieste, che deve caricare i 12 motori prodotti alla Wärtsilä da consegnare alla Daewoo in Corea del Sud. Nessun attracco previsto per il momento, dopo che la nave aveva annunciato l'ormeggio per rifornimento e poi fatto dietro front. I rappresentanti sindacali attendono di capire i prossimi movimenti della UHL Fusion. Si allontana comunque l'idea di un presidio dei lavoratori Wärtsilä in porto, ventilata in precedenza dai sindacati, visto che per la nave si tratterebbe in ogni caso di una sosta soltanto tecnica, perché non ha ancora l'autorizzazione a caricare i motori Wärtsilä. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Al via le iscrizioni online per i ricreatori invernali a Trieste, per la prima volta dopo la pandemia, senza numero chiuso. Ieri, il primo giorno d'apertura degli asili nido. Tra questi anche la presenza dei bambini dei dipendenti Wärtsilä, che ha una struttura convenzionata vicino allo stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Anche per i figli dei dipendenti Wärtsilä è iniziato l'asilo nido in questo nuovo anno scolastico 2022-2023. L'azienda finlandese è convenzionata da molti anni con un consorzio cooperativo di servizi per l'infanzia di Trieste, che ha una sede, la più grande, in via Morpurgo, a un paio di chilometri dallo stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Sono molte le aziende di quest'area industriale convenzionate con questo nido interaziendale. Dei 380 bambini che il consorzio accudisce, 65 sono posti in convenzione con il comune, ma la maggior parte sono proprio riservati ai figli dei lavoratori. Se resteranno a casa ne risentirà anche l'indotto e quindi forse anche una parte delle oltre 100 dipendenti del consorzio per l'infanzia. La presidente Serena Bontempi. Le convenzioni aziendali stanno funzionando bene ormai da molti anni, dal 2007. Certo, temiamo anche noi per la Varsila, perché è un nostro stakeholder da molto tempo e le famiglie Varsila convergono in questa struttura, specialmente benché la convenzione sia aperta a tutte le strutture del nostro consorzio, che sono 8 a questo punto. Diciamo che per il momento i bambini Varsila sono iscritti e stanno entrando. Ci terremo molto, ovviamente, che tutto questo vada avanti, tutto questo deve andare avanti. I 2.000 posti disponibili nei nidi di Trieste sembrano essere quasi sufficienti ad accontentare le richieste delle famiglie. Le graduatorie comunali per i 1.000 posti a disposizione scorrono veloci. Le rette sono alte, ma grazie ai contributi regionali per le famiglie, con ISEE sotto i 50.000 euro che si sommano al bonus statale INPS, la spesa effettivamente a carico delle famiglie si è molto abbattuta. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Per analizzare le opportunità offerte da Next Generation EU, piano di intervento europeo di investimenti e riforme per il rilancio economico post-pandemia, il Movimento Giovani Imprenditori del Friuli Venezia Giulia ha organizzato un incontro con l'eurodeputata Martina Dlabajova, componente della Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia dell'Europarlamento. Appuntamento a Santa Maria la Longa, Villa Tissano, alle 18. A Dlabajova abbiamo chiesto quali siano le principali iniziative previste dall'Unione Europea a favore delle piccole e medie imprese. Quello che è una cosa eccezionale è che l'Italia è lo Stato membro con più giovani imprenditori, 330.000 nel 2021, superando addirittura Francia e la Germania. Quindi il fatto che i giovani italiani hanno voglia di mettersi in gioco, per me è molto importante che ci sia questo evento di oggi dove possiamo parlare di strumenti concreti. E gli strumenti sono diversi. Ovviamente ci sono vari fondi europei nell'ambito di vari programmi europei, c'è la strategia europea per la piccola e media impresa, c'è la Next Generation EU, ci sono i piani nazionali che sono stati approvati qualche mese fa e saranno in piena funzione in diversi stati membri, c'è Erasmus per giovani imprenditori e c'è tantissimo altro ancora. Sono previsti degli aiuti economici a fondo perduto? Ci sono sia quelli a fondo perduto, sia i prestiti, che tra l'altro questa è una novità dell'Unione Europea, che si è messa in moto per avere anche i prestiti, quindi ci saranno varie cose che si possono combinare e proprio sono destinate ai giovani, perché ovviamente questo è il nostro futuro. C'è un limite d'età? No, perché la giovane imprenditoria ha diverse definizioni in diversi stati membri, quindi diciamo che questi aiuti all'imprenditoria sono stati lasciati abbastanza generali, ma è chiaro che la priorità viene data ai giovani imprenditori. Parliamo ora di una nuova figura professionale che intreccia i compiti dell'infermiere a quelli dell'operatore sociosanitario. Alla Fiera di Udine ci sono state le prime selezioni dei candidati, numerosi, destinati a partecipare al corso di formazione. Per 25 posti messi a disposizione dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale per un percorso di formazione per operatori sociosanitari complementari si sono presentati in 304 su 454 ammessi. 30 minuti di tempo per 30 domande a risposta multipla. Per chi supererà la selezione ci sarà un percorso formativo che prevede un'alternanza tra aula e reparti. Maria Barbo, presidente commissione e responsabile formazione dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Questa formazione ha una parte d'aula e una parte di tirocinio nelle diversi setting aziendali. Sono 180 ore di tirocinio e le altre sono in aula sulle materie specifiche dettate dalla normativa per le competenze che i colleghi devono rinforzare o acquisire. Penso che lo SCI possa compensare un po' quello che l'infermiere magari per questioni di tempo o altre motivazioni non riesce a fare. È importante nella nostra professione essere sempre formati. E poi anche perché purtroppo la graduatoria in ASUGI è ferma da tanto tempo, vediamo se questo può essere un nuovo sbocco lavorativo. So che è un terno al lotto, nel senso che sono solo 25 posti e quindi sarà difficile, però il mio obiettivo è quello di imparare. Maura Mesagli, dirigente professioni sanitarie, azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. La formazione complementare mira a creare delle persone che abbiano delle competenze nelle terapie per le vie naturali. Dopo questa prima fase di colloquio individuale, a ottobre inizierà il percorso d'aula. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla cronaca. Un migrante di 28 anni di origine pakistana trasferito mercoledì scorso nel centro per i rimpatri e i richiedenti asilo di Gradisca si è tolto la vita un'ora dopo il suo ingresso nella struttura. Secondo i primi accertamenti, il giovane aveva effettuato la visita medica e il suo comportamento sembrava normale. A trovarlo senza vita sono stati gli stessi compagni che hanno allertato gli operatori dell'ente gestore e i soccorsi. Giunta sul posto, la polizia giudiziaria ha raccolto le testimonianze dei compagni di camerata e degli operatori. Doppio intervento del soccorso alpino e speleologico in regione. A Cimolaise le squadre della stazione Valcellina hanno soccorso una 60enne triestina che ha accusato un malore al rifugio Pordenone. La donna è stata raggiunta da 4 soccorritori, imbarellata e trasportata per un tratto a spalle fino al parcheggio sottostante, da dove è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Pordenone. A Tarvisio un uomo che era andato in cerca di funghi lungo il sentiero CAI che conduce al Monte Goriana è caduto procurandosi una sospetta frattura a un arto. È stato imbarcato sul soccorso regionale e portato in ospedale, mentre le squadre di terra della stazione di Cava del Predil avevano raggiunto il sentiero risalendo in fuoristrada dal versante austriaco. Nell'ambito di una verifica presso una pescheria, gli agenti della polizia locale di Monfalcone e il personale del Dipartimento di Prevenzione della sezione Igiene degli Alimenti hanno accertato la presenza di mosche all'interno del negozio di pesce e di pesce messo a scongelare nell'acqua contenuta in un secchio che solitamente veniva utilizzato per effettuare le pulizie. È stato anche riscontrato che il titolare dell'esercizio commerciale, un cittadino di nazionalità bengalese, aveva congelato 20 kg di prodotti ittici in proprio, senza quindi adoperare una procedura adeguata a garantire la protezione degli alimenti. Inoltre, il manuale di autocontrollo per la sicurezza alimentare risultava non conosciuto dall'esercente, a cui è stata inflitta una sanzione di 1.000 euro per aver esercitato in assenza dei requisiti essenziali previsti dalla normativa sanitaria. Sia i 5 kg di pesce contenuti nel secchio e i 20 kg di prodotti ittici congelati in proprio dal titolare della pescheria sono stati sequestrati. Una notizia di pubblica utilità: dopo essere rimasta chiusa alcuni giorni a causa di una frana e la conseguente caduta di alcuni massi di grosse dimensioni sulla carreggiata all'altezza della località Ponte Giai, è stata riaperta ieri sera al traffico la strada regionale 465 tra Cercivento e Ravascletto. La circolazione al momento è limitata al senso unico alternato. Il Consiglio delle Autonomie Locali ha approvato all'unanimità il regolamento recante i criteri e le modalità per la connessione dei contributi a copertura delle spese di gestione dei parchi comunali. Durante l'incontro con i membri del CAL è stato evidenziato come, attraverso la norma varata dalla Regione, che stabilisce un quadro regolamentare completo e coerente dal punto di vista giuridico, vengano risolte le problematiche emerse negli ultimi anni in merito alla gestione dei contributi destinati ai parchi comunali e intercomunali. È intitolato Antifascismo di confine, l'incontro che proporrà un'analisi approfondita del clima e degli avvenimenti che incisero sui territori del Friuli Venezia Giulia. Il convegno sarà aperto da Antonella Lestani, presidente dell'ANPI, sezione Città di Udine, Fidal Magarosi di Zero Gianna. Poi la tavola rotonda vedrà intervenire Gianluigi Bettoli per gli storici del Friuli Occidentale e quindi Franco Cecotti dell'ANPI di Trieste, a Udine, al Teatro San Giorgio, alle 18. Torna Udine Friuli Doc, da sempre vetrina importante per le eccellenze enogastronomiche. Una ricetta vincente la cui offerta sarà distribuita nei luoghi più rappresentativi del centro cittadino dall'8 all'11 settembre. Prenderà il via giovedì 8 settembre la 28ª edizione di Friuli Doc, una 4 giorni che vedrà Udine proporre ai suoi ospiti un programma ricco di qualità ed esteso nei contenuti, per celebrare al meglio la cultura, le tradizioni e le eccellenze vinicole e gastronomiche del territorio friulano. Come da tradizione, la kermesse animerà tutte le più importanti vie e piazze del centro storico, come Piazza Libertà, Via Mercato Vecchio, Il Castello, Via Savognana, Via Aquileia, Piazza Matteotti, nelle quali si distribuiranno stand, esibizioni di show cooking, incontri, concerti, aree degustazioni, laboratori e mostre. Anche quest'anno, come nelle precedenti edizioni, tutti i musei della città rimarranno aperti. Tra i protagonisti non mancheranno le eccellenze friulane, come il prosciutto di San Daniele e il Montasio, e poi le specialità della montagna, della collina e del mare. I produttori di Io sono Friuli Venezia Giulia, piante, funghi, spezie, frutta e verdura del territorio, i banchetti degli artigiani e quelli gastronomici di Trieste e della Stiria. Infine, novità del 2022, alla tradizione delle osterie udinesi e delle loro proposte di abbinamento cibo-vino si affiaccheranno i 10 ristoranti di Udine Cooking, ciascuno dei quali proporrà un menù tipico del territorio. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. ITS compie 20 anni, il più accreditato talent internazionale di giovani creativi che da Trieste ha conquistato il mondo, festeggia il traguardo con due eventi. L'annuncio dall'ideatrice Barbara Franchini in occasione di un incontro con la stampa. Venerdì 9 settembre, nella sede di Via Cassa di Risparmio, ci sarà l'anteprima di ITS Arcademy, con una mostra che racconta 20 anni di progetti arrivati a Trieste da decine di paesi, una mostra curata dal francese Olivier Sellard. Arcademy, un po' arca, un po' accademia, avvierà a ottobre una prima fase di test. La prossima primavera l'inaugurazione ufficiale, che comprende anche l'apertura al pubblico del nuovo progetto voluto da Franchin, il Museum of Art and Fashion, museo internazionale di moda dedicato a giovani creativi. Sabato 10 settembre è previsto al Salone degli Incanti la grande festa con le sfilate e le premiazioni dei finalisti di quest'anno, una 20 sui 600 portfolio arrivati da oltre 40 paesi. 3 le sezioni, moda, accessori e arte, con loro anche 80 di finalisti dello scorso anno, online causa Covid, ma anche di tutte le edizioni di 20 di talent. È il primo vero e proprio festival di teatro antico mai realizzato in Friuli Venezia Giulia, il primo in Italia ad avvicinare due mondi, quello del teatro e dello sport, tra cui da sempre esistono profonde affinità. Una novità portata in regione da Anatema Teatro, una rassegna internazionale di teatro antico che riporta indietro le lancette dell'orologio ai tempi dell'antica Roma e dell'antica Grecia, fino al 3 settembre ad Osoppo, con spettacoli, molti dei quali in prima nazionale o internazionale, competizioni sportive, concerti, incontri. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. Si è chiusa ieri a mezzanotte la sessione estiva del calciomercato. In Serie A l'Udinese ha ceduto in prestito fino al 30 giugno il difensore Benkovic ai tedeschi dell'Eintracht Braunschweig. Pussetto va alla Sampdoria. In uscita anche Palumbo, che torna alla Juventus. In Serie C il giocatore Lorenzo Lollo arriva a titolo definitivo alla Triestina dalla società Regina, legandosi all'Unione con un accordo fino al termine della stagione. Lollo ha vestito in precedenza le maglie del Carpi, dove ha conquistato una storica promozione in Serie A, e quelle di Empoli, Padova, Venezia, Bari e Legnago. A Gradisca di Sonzo, con la cerimonia di inaugurazione, la partita inaugurale tra Pordenone e Real Martellago, terminata per 8-0 a favore dei ramari neroverde, è iniziata la 36esima edizione del Trofeo Internazionale Nereo Rocco, che si concluderà il 7 settembre. 8 le squadre partecipanti divise in 2 gironi. Mettersi in mostra e naturalmente divertirsi, il Trofeo Nereo Rocco Città di Gradisca ritorna per essere vetrina del calcio giovanile riservato alla categoria allievi Under 18. Da qui sono passati campioni come Shevchenko, Raul e Pirlo. I mondiali in Qatar a novembre hanno condizionato le scelte di alcuni grandi club, ma Pordenone, Triestina e Cellin Spunzane hanno voluto esserci per far confrontare i loro giocatori di domani con i giovani sloveni del Tabor Cesana e del Nova Gorica. Presenti anche Tor Viscosa e Real Martellago. La curiosità sarà rappresentata dalla compagine africana del Mazembe, Repubblica Democratica del Congo. Franco Bonanno, presidente del comitato organizzatore. Qual è la filosofia di questo torneo? È di far giocare i giovani, ma fargli fare anche soprattutto il terzo tempo. Quando finisce la partita dobbiamo sederci tutti al tavolo assieme, mangiare una pasta asciutta e magari cercare di dialogare tra italiani quando siamo tra italiani e dopo inglese italiano quando c'è qualche squadra estera. Sfide da giocare sui campi di Gradisca, Iello e San Canzian. La finale è in programma a Cividale del Friuli mercoledì 7 settembre. Nel corso della presentazione anche la cerimonia di consegna dei premi allo sport. Nella categoria dirigenti premiati Vincenzo Zanutta, presidente del Cellin Spunzane, Davide Michalic, Gesteco Cividale, e il vicepresidente regionale FIGC Fabrizio Chiarvesio. Nella categoria atleti e tecnici il coach Gesteco Stefano Pillastrini. Nella categoria giornalisti premiati Andrea Rinaldi, inviato Rai della TGR del Friuli Venezia Giulia, e alla memoria il direttore del Piccolo e Messaggero Veneto Omar Monastier. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Basket, c'è attesa Udine per la sesta edizione del Memorial Paietta, oggi e domani al Pala Carnera. Oggi sono in programma le semifinali fra il Basket Torino, allenato da Franco Ciani, e la Reyer Venezia alle 18.15. A seguire l'atteso derby tra Trieste e Udine alle 20.45. Sabato le finali per il primo e terzo posto. A Lignano tra oggi e domani di scena il Memorial Bortoluzzi, quadrangolare che vedrà protagonista la Gestecco Cividale, che affronterà alle 21.15 Forlì. In precedenza, alle 19, si giocherà l'altra semifinale tra Rimini e la croata Škrljevo. Domani le finali. Ciclismo, ha preso via la 58esima edizione del Giro Internazionale del Friuli Venezia Giulia. La prima tappa, una cronometro a squadra di 20 km con partenza e arrivo a Lavariano, nel comune di Mortegliano, è stata vinta dal Cycling Team Friuli. Nicolo Buratti, 21enne di Corno di Rosazzo, primo a tagliare il traguardo e anche il primo leader della corsa, e ha indossato la maglia gialla. Oggi si disputa la seconda tappa, la Fagnana Colleredo di Monte Albano, di 157 km. Con oltre 3.500 visitatori registrati dal 5 marzo, dei quali il 15% provenienti da vari paesi europei, Casa Colussi, sede del Centro Studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa, ha tracciato un bilancio dell'operazione con cui si è presentata l'appuntamento con il centenario dello scrittore e regista. Il nuovo allestimento di taglio museale, che racconta al pubblico l'articolata vicenda biografica e culturale del Pasolini friulano, arricchito dalla Pinacoteca che raccoglie i suoi quadri. La prossima settimana il Centro Studi darà il via a una fitta programmazione autunnale che si aprirà con importanti iniziative legate all'attività formativa, quella post-universitaria, con la quinta edizione della Scuola Pasolini, e quella dedicata ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado per insegnare Pasolini. Funzione e gestione dei boschi carsici nell'attuale crisi climatica è il titolo dell'incontro organizzato dall'associazione ambientalista Legambiente, che prevede più interventi dedicati a 360 gradi a pianificazione e tutela dell'area boschiva. L'evento è previsto ad Oberdò del Lago, al centro visite Gradina, in via Vallone, dalle 18. Tra i relatori Giorgio Alberti, docente di silvicoltura e gestione forestale all'Università di Udine, con l'intervento intitolato Prime stime di danno degli incendi nel Carso e prospettive future, di cui gli abbiamo chiesto una breve sintesi. L'Università di Udine, insieme con l'Università di Trieste, ha avuto modo di stimare da satellite i primi danni dell'incendio del Carso di quest'estate, e in totale abbiamo stimato una superficie bruciata totale di più di 4.500 ettari, di cui circa 4.000 effettivamente boscati. Gran parte di questi danni riguardano l'area oltre confine in Slovenia e solo una quota riguarda l'area italiana, di cui il comune di Oberdò del Lago è quello, diciamo, stato più colpito, quasi 500 ettari. Complessivamente abbiamo stimato che sono stati bruciati o comunque danneggiati quasi 200.000 metri cubi di legname, ma ovviamente stime più precise saranno effettuate nelle prossime settimane attraverso rilievi ad hoc. Rispetto agli anni scorsi, quando ci sono sempre stati degli incendi, quest'anno quanto è stato più grave, quanto è avvenuto? L'intensità dell'incendio in termini di superficie è molto superiore in un singolo evento a quanto di solito abbiamo visto nella nostra regione. In generale il numero degli incendi diminuisce, ma aumenta dai dati statistici l'intensità di questi incendi, soprattutto a causa del cambiamento climatico che influenza lo stato della vegetazione, che è stressata, il contenuto idrico anche del legno e della lettiera a terra, e quindi crea le condizioni ideali per eventi di elevata intensità. Riguardo alle prospettive future, cosa si può pensare per queste aree così gravemente colpite? Quello che noi dovremo fare in futuro è cercare di prevenire questi eventi con una gestione del territorio e anche cercare di favorire specie che sono più resistenti al cambiamento climatico e quindi anche a questo tipo di eventi. Alle 7.47 minuti in questo istante cominciamo la rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo Edizione di Trieste. Titolo d'apertura dedicato alla crisi Varsila, Trieste si prepara al grande corteo dal vescovo ai commercianti, adesioni in crescita, il comitato di sicurezza dice che saranno attese oltre 6.000 persone. A centro pagina la fotonotizia, il porto di Trieste corre, grazie a merci e crociere nel primo semestre sbarcati 109.000 passeggeri, più 1575% sul 2021, salita a 29 milioni le tonnellate movimentate, più 13% container, più 17%. Nel capocronaca Fondazione Cere Trieste, ecco le terne per il board, Paniccia verso il ritorno, lo storico presidente alla guida dell'ente dal 2002 al 2018 è pronto a riprendere il timone dopo la parentesi di Benussi, i candidati di Comune e CCA al Consiglio. Ponte Rosso e non solo, la città si riscopre crocevia di culture, una settimana di eventi tra storia, cultura e cucina. Si parte domani con la visita al cimitero evangelico. Lettura dell'edizione di Udine del Messaggero Veneto e per le rinunce da parte di guardie mediche in azienda sanitaria Friuli Centrale dovute, secondo il sindacato autonomo medici, a motivi economici e di sicurezza. Fotonotizia per Friuli Doc e poi in tema elezioni politiche il sorteggio dell'ordine delle liste sulle schede elettorali di ieri. Azione Italia Viva aprirà l'elenco per la Camera, il Movimento Vita è estratto al primo posto per il Senato. Per l'economia la classifica dell'Unione Nazionale Consumatori sugli aumenti dei prezzi che vede al vertice voli aerei ed energia. In tema ambiente, la spedizione dei glaciologi che ha constatato come il ghiacciaio occidentale del Montasio sia l'unico e ultimo rimasto in regione che resiste però anche al riscaldamento globale. Per il turismo, da Lignano, la riunione di rappresentanti di categoria che ha attestato la crescita rispetto al 2019 dei turisti di quest'estate. Il Gazzettino, nell'edizione di Udine, apre sul progetto di chiusura delle scuole il sabato in chiave di risparmio energia, fattibile solo con l'approvazione da parte del governo. In fotonotizia la vittoria dell'Udinese Calcio sulla Fiorentina per la sanità, la lettera del NURSIN, del sindacato autonomo delle professioni infermieristiche, in seguito alle decisioni sull'utilizzo degli infermieri di sala operatoria dell'ospedale al pronto soccorso per coprire turni ma senza preparazione né affiancamento. Il direttore medico controbatte, operatori sempre messi con altri colleghi. Spazio poi alla RSA di Palmanova, chiusa da 2 anni, e alle proteste dei comitati di Cividale per la riapertura dei reparti medicine e pronto soccorso dell'ospedale locale. Dal piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone, bonifiche terminate, la nave al SAD può partire. La capitaneria di Monfalcone dispone la revoca del fermo in porto. Indagini sulle cause dell'incidente, disposta la revoca della detenzione della nave battente bandiera Isole Marshall, dove lunedì 22 agosto si era verificato, nelle operazioni di bunkeraggio, un ingente sversamento a mare di olio combustibile. Pronte le richieste di risarcimento. L'attacco hacker al comune di Gorizia ha messo a rischio i funerali. L'ufficio anagrafe è costretto a compilare a mano i certificati di morte dopo il crash. La testimonianza, si sono anche scusati e sono stati professionali e gentili. In Corso Verdi hanno un ritardo di 7 mesi i lavori per il capolinea dei bus. Intervento per eliminare le barriere architettoniche doveva terminare a febbraio. Il cantiere è fermo. L'area risulta transennata e la fermata rimane in via Mameli. Curiosità alla Sagra delle Razze, Bobolarda collezione a Staranzano, all'asta i 300 pezzi di rami tagliati, in vendita domenica in più riprese con tanto di timbro. Prevista la pigiatura dell'uva, ma senza la sfilata. Il Messaggero nell'edizione di Pordenone apre sulle intenzioni dell'amministrazione comunale di trovare fondi entro fine mandato per la costruzione di uno stadio. Fotonotizia per la nuova sede in piazza Duca d'Aosta del gestore idrico Idrogea, che traslocherà tra 15 giorni ed è tuttora priva di posti auto. Spazio poi ai vandalismi all'ex Gatta Negra, di cui vi abbiamo dato conto ieri, e poi da Sacile la messa in sicurezza del Canoa Club dopo l'incendio di fine luglio. La fotonotizia dell'edizione di Pordenone del Gazzettino è per l'assenza di indicazioni sulla Sagra degli Osei sul portale di Promoturismo FVG. Spazio poi alle ipotesi di chiusura serale anticipata dei negozi in chiave di risparmio energetico. Alcuni appuntamenti. Prima giornata a Palmanova della rievocazione storica seicentesca in calendario fino a domenica, in cui sarà rivissuta la storia della fortezza con la vita delle guarnigioni, gli addestramenti delle milizie, i duelli, le tradizioni, i mestieri, cucina, sartoria, musiche e danze d'epoca. Oltre 1000 partecipanti in abito storico, in cui si contano 60 gruppi storici provenienti da 15 paesi europei, dall'Inghilterra alla Slovacchia, dalla Spagna all'Ungheria, con abiti e corredi fedelmente ricostruiti. Oggi in programma la conferenza Pax Veneta, arte, miti e storia a Venezia, prima di Palmanova, nel Salone d'Onore del Palazzo Municipale. A seguire alle 20.45, apertura della manifestazione, Anno Domini 1615, Palma alle armi, con banditori e rassegna dei vessilli, e il torneo internazionale di scherma storica. Segnaliamo ora altri appuntamenti odierni. Seconda giornata per l'iniziativa Climbing for Climate, che monitora lo stato di salute dei ghiacciai alpini. In scaletta l'incontro a punti di viaggi tra i ghiacciai a Tarvisio, presso l'Enoteca Macoratti, alle 11.30. Seguirà l'incontro Attacco al Verde, acclimatamenti delle piante a un clima che cambia, ma al Borghetto, a Palazzo Veneziano, alle 17.30. Il premio internazionale per la sceneggiatura Matador, dedicato al giovane talento triestino, scomparso prematuramente nel 2009, Matteo Caenazzo, sarà presentato a Venezia, all'Hotel Excelsior del Lido, alle 14.45. La rassegna Vicino Lontano Mont torna a riflettere sul futuro della montagna con l'incontro Uno sguardo dentro il futuro, territorio e imprese delle terre alte di fronte alle sfide della contemporaneità. A Tolmezzo, nel giardino del Museo Carnico delle Arti Popolari, alle 18. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio alle 11.10 circa. Il consueto appuntamento con Wolf Evelyn D, che parlerà del festival Vicino Lontano Monta Tolmezzo, appunto. Alle 11.20 andrà in onda Un tranquillo weekend da paura estate. I programmi regionali torneranno poi alle 14. Ed è tutto per questo primo appuntamento con il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Giorgio Beerz, con la collaborazione tecnica di Viola Romanese e Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Prossimo appuntamento con il GR alle 12.30. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.